Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Pareva un'avventura e niente più. Soltanto una stagione e niente più. Invece amore grande perché tu, tu vuoi l'amore vero e non te lascio più. E mocca tu stai qua, non sa che già fa, si ha già ridere o chiagnere perché... No, io non ho mai pensato francamente a un erede, purtroppo non si è ancora fatto vivo e io spero che si faccia vivo presto. Quindi... E mocca tu stai qua, non sa ciò che già fa, si dà già fa sentire questa canzone quando tu passavi sto guaglione soltanto un anno fa. Scende piano piano, discende dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. Questa canzone l'ha scritta Silvio Berlusconi, e canta ovviamente Apicella. Forza Italia ha avuto un calo di consensi perché lei sa quante ore di televisione nazionale fa Renzi? 6 ore alla settimana. Sa quante ore di televisione nazionale consuma Salvini? 6 ore alla settimana. Io dovrei essere... Sa da un anno Berlusconi quante ore è andato in televisione nazionale? 0 ore. Ma se non hai, lei la invito non viene, ha di fronte che ci per la prima volta Berlusconi dopo un anno di assenza dalle televisioni. Presidente... Mon amour. Fazio che cercava anche di intervenire, ma non si interviene con Berlusconi, cioè è inutile, non... Scusi, inutile. C'è Milan Torino, lei c'è Milan Torino ed è qui, quindi è chiaro un segno, lei Milan basta, l'ha venduto al Partito Comunista Cinese, questo è il dato di fatto. Cercando qualcuno che sia disposto a condividere con me i finanziamenti futuri per il mio Milan, che non ho intenzione di lasciare, ho intenzione di riportare ad essere quel protagonista straordinario che è stato nei quasi 30 anni della mia presidenza, arrivando ad essere la squadra più titolata al mondo. Grande palla di Van Ginkel, El Shaarawy! Andiamo! Probabilmente l'ultimo pallone del suo match, la doppietta, dai che si recupera! 3-0 del Milan. Dai che si recupera, c'è tutto un campionato per risalire la china, per recuperare, insomma, forza, è tornato il faraone, grande. 6:33 minuti, questo è 24 mattino, mi ha messo il gol del Shaarawy per ravvivare un attimo. Il Shaarawy! Perché probabilmente io non l'ho visto, signor Berlusconi. Ma dicono una noia mortale da Fabio Fazio. Oggi leggevo su Repubblica, praticamente una roba. Io vedevo chiaramente la partita. Intanto voglio salutare Peter Bescapè, è tornato il nostro alpino in regia, e c'è anche Lorenzo Nespoli in redazione. Mamma mia, che musica fastidiosa. Che musica fastidiosa. Allora, siamo qui, è lunedì, questo è 24 mattino, è lunedì. Ebbene sì, al 349-238-6666 se volete scriverci. Intanto voglio salutare chi c'è con noi, c'è il nostro... Chi è? Veronica. C'è Veronica? Buongiorno. Ormai ce ne inventiamo una botta. Sì, no, hai detto botta, stai tranquilla. Ok, devo controllarmi. Sono le 6:34 minuti. Abbi pazienza. Ogni tanto me lo dimentico, credo che sia ancora la notte, capito? Invece è la mattina, scusa. Veronica, è tornato il faraone, andiamo! Tu sai chi è il faraone? No. Hai sentito il silenzio tombale? Ormai sono terrorizzata io. È tornato El Shaarawy! Eccolo qui! El Al-Sharawi è il faraone, c'è il papà egiziano e quindi... Qui ci possiamo infilare veramente in un ginepraio dal quale non ne usciamo più, non va bene. Allora, insieme a Veronica Gentili, la nostra pensatrice del fatto... Sociale, però quando ti lanci vedi di non farti male, corri finché puoi sopra dei vetri piedi scalzi, e non ti preoccupare quando finirai nei cazzi, se stai col culo a terra sai che quando ti rialzi... Diceva anche Federico forse... Buongiorno, ma siete ubriachi stamattina? Perché c'è Fede, ecco. Guarda, preferivo la sigla della Champions. C'è Fedez che parla di Federico, sì. Oggi siamo un po' pazzi così, siamo, abbiamo messo già 18. Questa è la canzoncina della Champions League per Federico Novella, che conduce Mattino 5. Sta andando. Ciao Federico, tutto bene? Tutto bene, sono qui in tangenziale nord. Tutto scorre. Tempo sereno, tutto scorre, anche il traffico è particolarmente scorrevole. Vedi? È iniziato il ponte del 2 di giugno, è iniziato oggi. Sì. Già lo dico, l'unico, uno dei pochi pirla che il 2 giugno sarà qua a lavorare saremo noi di 24 mattina. No, non è vero. Anch'io sono il pirla. È già due pirla. La terza non l'ha trovata, ve lo dico. Va bene. Allora, però io qua tu Veronica l'hai visto ieri? Lavoro solo io per tutti. Voi guardate la partita che vi frega. Sì, io l'ho visto. L'hai visto Silvio Berlusconi? È stato così noioso? Non l'avrei mai lasciato da solo. Guarda, siete veramente perfidi, povero Silvio. Sei divertita? È stata una cosa straziante, non è vero. La parola noiosa non è per niente giusta. No. E vedermi io guardare, capito, con tono così compassionevole, anche un po' empatico, Silvio Berlusconi, è stata una cosa veramente preoccupante. Veramente? Sì, anche perché Fazio che non interviene a questo giro, è vero, insomma, che con Berlusconi uno non interviene, ma qui le ragioni erano diverse. Cosa intervieni a fare? Cioè, ha fatto un'intervista a Zerbinato. No. Qui l'intervista, figurati, non è a Berlusconi che bisogna essere azzerbinati adesso. Non era quello il senso. Anzi, dove ha potuto l'ha schiaffata qualche intervento per ribadire chi è che conta adesso e chi è che cose le fa bene. Con Berlusconi doveva soltanto stare lì, guardare questo show, un po' questa specie di canto del cigno. È stato un po' triste, direi, ecco, l'unica espressione. Con un finale dove devo dire invece lui è sempre, gli ha chiesto se è felice, che è stata la domanda di punta, e lui ha detto risposto. Felice, non so cosa sia la felicità, posso dire che sono sereno, ma del resto sono sempre stato sereno. Silvio, ora, stai non... sereno? Silvio, esatto, stai già sereno. Ieri sera ho commentato e ho detto è sempre stato sereno, per questo è sempre stato tanto difficile fregarlo. Vabbè, ma allora se è felice e sereno il posto di Federico Novella è assicurato anche oggi, tutto a posto. Queste facili ironie. Questo io l'ho guardato perché ero preoccupata per Federico e ho detto fatemi verificare che succede. Esatto. Ma capito? Tu Federico non hai seguito Silvio Berlusconi? Cioè, se oggi arrivi ti interrogano. Oggi spiegano, non è giornata di interrogazioni. No. Beh, è stato un'intervista serena e non poteva essere altrimenti, nel senso che forse proprio per questo che non è stata, diciamo, una cosa particolarmente scoppiettante. Però, come diceva la collega Veronica, le notizie di questi tempi si tirano fuori da altri personaggi, no? È vero. Sì, cioè, hai detto che Silvio Berlusconi è finito, no? Detto da Federico Novella. No. Vedi tu se adesso quando arrivi a Mediaset la sbarra si apre. Sto per arrivare, ti faccio la cronaca in diretta. Dicelo in tempo reale. Vorrei che tu raccontassi il tuo licenziamento in diretta, sarebbe una vera radio verità. Momento di punta, il picco del Parlamento. Esatto, radio verità. Poi Federico ovviamente vieni qui e noi qua cercheremo di trovare un modo per risolvere. Sì, a fare le fotocopie, mi sembra che c'è qualcuno che manchi a fare le fotocopie. Dai, non buttarti così giù, assolutamente. Anzi, se vuoi svegliarti tu alle 5 vieni. Però tu è così, qui tu al posto mio. Che cosa ti aspettavi? È così? No, io non mi aspettavo nulla, tanto che ho visto Milan-Torino. Quindi ma quello non è che perché l'hai visto perché non ti aspettavi nulla, quello l'avresti fatto comunque qualunque cosa ti fossi aspettato. Ho capito, ho capito, però la penultima giornata potevo vedere, ma stavo cenando in realtà, non vedevo neanche, non ho visto né l'uno né l'altro, il primo tempo l'ho perso così. Vabbè, diciamo, ma comunque... che la cosa più triste ancora però non è lui, ma tutte le sue donne, insomma, le donne di Forza Italia che twittano, ritwittano, sì, ancora dicendo il nostro unico leader, sì, il problema è che non c'è una destra, non accenna ad intervenire in alcun modo, parlo di una destra moderata, sensata, che dovrebbe garantire l'alternanza politica in qualche modo, non parlo comunque di altre attenzione, destre. Abbiamo trovato la terza pirla, è Cristiana che ci scrive, sarò di turno come infermiera, come tante altre infermiere, no, ma Cristiana, non, anzi, fai un lavoro fondamentale, molto più importante del mio e di Federico Novella. E del mio, sì, non mi ci sentiamo meno soli però. Quindi, adesso. Un abbraccio a Cristiana che lavorerà anche il primo e il 2 giugno. Allora, ciao, però io volevo chiedervi questa cosa, siccome ne approfitto, abbiamo Federico Novella che ha 3 figli, e sì, quindi insomma, e si ferma. Veronica, non lo sapevi? 3 figlie? No, 3 figlie. Non ho studiato ancora. 3 figlie, tra l'altro, esatto, io ho detto figli, invece tutte figlie. Sì, non ho ancora letto la mia biografia, lascia fare, insomma, ci sta che non lo sappia. Ha 3 figlie. No, quindi... no, ma adesso studio, dopo, cioè, adesso attacchiamo. E Federico, quanti anni hai, tra l'altro? 34. Tu 3 figlie? Sì, vabbè, non è una cosa, cioè sì, una cosa non comune, ma neanche straordinaria, insomma. No, sei stato abbastanza operativo, diciamo, ecco. Sì, diciamo dato... che mi sono portato avanti. Portato hai alzato la media italiana. Cioè, ragazzi, lui sì, come dice Salvini, bisogna fare figli qui, altro che far arrivare. Vabbè, comunque non volevo buttarla, non volevo buttarla così. Non l'ho no. fatto pensando a Salvini, no, mettiamola in realtà, così. Esatto. 3 figli a 34 anni. Tu, Veronica, quanti anni hai? Si può chiedere di una gentile donzella? Sì, certo, ne ho 30. E non ho figli. E vabbè, quindi 30, però se ti impegni, dici sbrigati, no, se ti impegni, pazienza. Guarda che 34 ce la puoi fare con 3 figli. Certo, devi fare una roba serratissima. Ah, dici, stacco, mi vedi che mi telefonate la mattina. Io sono con 3 pargoli, uno di 6 mesi, uno di un anno e 6 mesi. No, in realtà la questione era molto più seria. Allora, io volevo chiedere a voi, che avete una prospettiva sicuramente diversa per la vostra situazione attuale, che cosa ne pensate di famiglie, cosa ne pensate domani. C'è parte il divorzio breve, va bene, da una parte, e poi soprattutto c'è questa cosa dell'Irlanda, no? In Irlanda, la cattolicissima Irlanda, hanno stabilito per referendum di cambiare la Costituzione e mettere i matrimoni gay. Allora, Veronica, tu sarai... Io sono contentona. No, vabbè, che c'entra? Cioè, da una parte c'è l'Irlanda che dice si sposano anche le nozze omosessuali. Cioè. Qui in Italia invece non facciamo questo, siamo sempre arretrati, qualcuno dice invece è giusto così, e invece domani parte il divorzio breve. Esatto. Cominciamo con l'Irlanda? Comincia con l'Irlanda, dai. Ma non lo so, forse siamo sempre stati convinti che l'Irlanda sia una nazione storicamente cattolicissima, forse siamo rimasti un po' indietro, non è così cattolica come pensavamo. Anche la Spagna pensiamo che sia cattolica, invece dal punto di vista dei diritti di famiglia è molto più avanti di noi. O forse sono cattolici, ma questo non è un problema. Cioè, nel senso, sono molto cattolici. Cioè, l'arcivescovo di Dublino ha detto... L'arcivescovo di ieri racconta proprio questo. L'arcivescovo di Dublino ha detto non si può negare la realtà, detta dall'arcivescovo, quindi uno che, insomma... Poi ti dico, l'Irlanda è indietro per tante altre cose, no? Per esempio l'aborto è ancora illegale, no? Ci fu una storia qualche anno fa terribile di una signora che era rimasta incinta dopo uno stupro ed è stata costretta, no? A partorire, ha tentato anche il suicidio. Forse sì, forse hai ragione tu, ma forse ci sono anche meno resistenze. Io ti dico, se questo referendum venisse fatto da noi, io non sono così ottimista che possa passare. Che possa passare, ma a parte che la gente... No, tu decidi invece. Assolutamente sì. Ma che io gente frequenti, Veronica? Vabbè, questo lo sappiamo già, ce lo siamo già detto, l'amica dei centri sociali, abbiamo già fatto tutto. Appunto. Però, cioè, se votano tra la tua cerchia l'89-90% è a favore. Andiamo anche al 100%. Anche al 100%. Ma guarda che... Rivoluzionari. Rivoluzionari. Noi siamo, capisci, purtroppo quelli così, quelli compagni, e quindi è andata. Però no, scherzi a parte, dico che invece secondo me non, su questo non siamo molto in ascolto dell'esterno, perlomeno la politica non lo è, perché secondo me da un punto di vista delle reali resistenze nella gente, nella popolazione, non è vero che c'è ancora una rifrattarietà. Io credo che questi siano concetti abbastanza metabolizzati, e quindi quello che non si fa, non si fa un po' per ipocrisia, un po' per cercare di tenere in piedi, dare un colpo al cerchio, uno alla botte, comunque perché si ha un rapporto di sudditanza nei confronti della Chiesa, anche quando la Chiesa stessa invece è la Chiesa secondo te il problema? Ma non è la Chiesa in quanto la Chiesa sudditanza della politica nei confronti della Chiesa? Secondo me sì, perché c'è sempre un asservirsi anche quando l'asservimento non è richiesto, e quindi pensando di sottrarsi una fetta di consenso si traccheggia e si prende tempo. Devo dire che sono un po' d'accordo con Verone, è un po' così, Federico, è incredibile. Sì, sono un po' d'accordo con Verone, non è solo una questione incredibile, è incredibile. Non ci succede mai. No, è incredibile. Non sono un esperto, però in Irlanda secondo me tutto ciò che è legato alla Chiesa è comunque molto più leggero rispetto alle strutture che abbiamo noi, che sono, cioè, non fai due passi nella capitale e non cozzi contro il Vaticano, ma poi ripeto, magari il Vaticano neanche lo sa, neanche si muove, c'è tutto un contorno però che si accoda per ragioni politiche. È quello che Veronica dice, siamo più realisti del re in questo caso, più papisti del Papa. È strano che siamo d'accordo con lei, infatti, ma è incredibile, cosa che non basta. Dobbiamo subito trovare qualcosa, no? Ma infatti. Dobbiamo subito trovare qualcosa. Che ne pensi del Barcellona, del nuovo mercato? Ragazzi, allora, già Federico ieri, capisci, mandava dei tweet minatori chiedendomi se avessi studiato il fuorigioco, quindi io mi devo preoccupare. È vero, attenzione, ci devi raccontare in due parole. Nell'intervallo di Fabio Fazio avrai in 10 secondi cosa pensi, cioè, secondo te il fuorigioco come lo definiresti? Così, in 10 secondi. Diciamo che il fuorigioco è quando sei troppo avanti rispetto a dove dovresti essere, quindi la tua mossa si annulla, va bene così? Guarda che ti sei sbagliato. Quello è subbuteo. Quello forse. è l'Italicum, ti sei sbagliata con l'Italicum. No, ma tra l'altro, guarda che quando ha detto sei troppo avanti rispetto a dove dovresti essere, fino a lì diciamo che il concetto filava, e quindi la tua mossa viene annullata, cosa vuol dire? Ma che è? Si gioca a calmo. Molto calmo, vuol dire che se segni in fuorigioco è fuorigioco. Ma sì, ma la tua mossa viene annullata, ma che è Risico? Cioè, non ho capito. Ragazzi, scacchi in realtà. Scacchi. Vi potete rifare su di me soltanto col calcio, siete veramente scorretti. Ma no, ma è bellissimo, proprio. Tu lo sai che abbiamo trovato un punto debole e ovviamente da signori. Ma voi volete che io vi interroghi sui premi di Cannes? Andiamo al traffico, tutto i francesi, traffico. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. 24 mattino. Caro Milan, io sono pronta a rinunciare a quanto mi deve il governo per le pensioni, solo una condizione, che tutti i vitalizi scompaiano dall'Italia, tutti. Ha ragione Renzi, caro Milan, dicendo che la Lega sono 20 anni che sbraita Roma ladrona, ma sono 20 anni che sono a Roma e stanno bene. Sì, ciao Milan, senti, volevo solo dire una cosa. C'è il nostro premier Renzi che dice sempre io vado avanti senza chiedere niente a nessuno. Ma lui va avanti senza avere il consenso del Parlamento e soprattutto sta andando avanti a fare riforme senza che è stato eletto. Quindi è meglio che si dà una calmata al ragazzo, Pinocchietto. Alessandro Milan, tu sei anche bravo, ma non sai fare la in piazza. Le notizie sulla tua squadra vanno nella carta costa. Con la signorina la PPP che non sa che cos'è il calcio, che cos'è un fuorigioco, la bella signorina è una che difende troppo la sinistra, ma lei dovrebbe usare la destra e la sinistra, e così almeno una mano lava l'altra. Le donne comuniste non le invitare più a 24 mattine, che credo da rovinare la trasmissione. La donna comunista in questione è Veronica Gentili. Pubblico tollerante. Vedi, devo dire che mi piace come definizione, però. Ringrazio il signore. Cioè, che cosa? Comunista, la donna... comunista, ma anche ignorante. Però, sì, ignorante di calcio. Cos'è un fuorigioco? Anche ignorante. Qui adesso ci stiamo allargando, secondo me. Sì. Vabbè, si sa. Allora, intanto, no, noi. scherziamo su questo, ma Guerini, che è pur sempre il vice di Renzi nel Partito Democratico, ha detto che entro l'anno ci saranno le unioni civili, vedi? È proprio ha ragione quello che fa la parodia di Matteo Renzi su Twitter. Non so se lo sapete, si chiama Renzo Mattei. Ieri Renzo ha scritto una genialata, ha detto: genio. Grande successo del governo, ora i gay italiani potranno sposarsi in Irlanda. Andiamo avanti così, ora gli italiani così. Potranno avanti così. No, ma infatti la legge consiste in un pacchetto viaggio per Dublino. Esatto. Certo, certo. No, qui in Italia non si, io lo continuo a dire quando conto le settimane decisive, non si fa nulla, non si dibatte, si discute, Federico, noi discutiamo. Soprattutto su queste cose, su queste cose di principio, si ha paura di scontentare sempre una parte. Sì, siamo un paese immobile da questo punto di vista. Pur di non cambiare nulla, di non far male a qualcuno, non si sa chi, non si cambia nulla. Ma è per questo che ti dico che secondo me non è un fatto ormai di resistenze reali della gente, perché il fatto che Berlusconi stesso comunque ieri sera apra da faccio completamente alle unioni civili, ai rapporti gay, proprio citandoli, lui che è Berlusconi, e ricordiamo insomma tutto quello che ha detto, pur non essendo mai stato, insomma, però non è mai stata una sua battaglia centrale, è sempre stato molto parco, l'ha detto persino lui, per cui pensare che sia uno che ci siano delle resistenze nella collettività molto forti, ormai è un'ipocrisia, non è così. Resistenze ce ne sono. Probabilmente non è il primo pensiero degli italiani quello delle unioni omosessuali. Probabilmente c'è un po' di indifferenza, perché al primo posto dei pensieri italiani ci sono argomenti un po' più concreti. Ma su questo non c'è dubbio, cioè i soldi, il bilancio di casa, esatto, diciamo. Però ragazzi, queste secondo me sono anche le battaglie, quelle importanti, poi da un punto di vista invece dell'evoluzione di un paese. Su questo sono d'accordo, è incredibile, è la seconda volta che sono d'accordo con Veronica. Siamo a due, siamo a due. No, nel senso che se uno deve pensare alle priorità, cioè le pensioni, il lavoro ai giovani, certo, allora di queste cose non se ne occupa più, invece si possono fare più cose contemporaneamente. Vi do quest'altra perla: non si può fare la politica di solo tattica, pensando sempre al contingente, se uno poi non ha anche dei progetti un po' più a lunga distanza, più strategici, guardando anche quello che sarà il paese che quindi Veronica Gentili si sbrighi a fare dei figli, proprio infatti il concetto è svenuto, e adesso questo legame non lo trovo tra le due cose. Comunque però, caro Lorenzo, ci scrive Lorenzo da Milano: Veronica viene a cena con me senza parlare di politica, grazie. Ma come senza parlare di politica? Non è stato sedotto e rapito da tutte le... Esatto, quindi Lorenzo è un no da parte di Veronica Gentili, se te la becchi a cena te la becchi anche a parlare un po' di politica. Poi ci chiede qualcuno: come si fa a essere veri comunisti a 30 anni, Veronica, senza aver mai mangiato dei bambini? Ma questo non si sa, infatti non ne ha, forse. Sapere che non ne abbia mangiato? Non ne ho fatti, ma non vuol dire che non ne abbia mangiati? Esatto. Scusatemi. Esatto. E invece che ne pensa la compagna Veronica del vitalizio al compagno Chetto? Ma quanto ho riso la settimana scorsa. Penso che la tematica dei vitalizi è veramente una tematica dolorosa nella quale addentrarsi, e che chiunque ne parli, anche quando tenta di fare un po' il martire, perché il discorso di Occhetto era quello, purtroppo ne esce sempre un po' con le ossa rotte. Allora vi lascio con questa, dai: De Luca verso Saviano nell'imitazione di Crozza, è un genio. Crozza è un genio, meraviglia. De Luca. Io ci andrei anche a prendere un caffè con Saviano, sì. Purtroppo mi hanno detto che preferisce nutrirsi di banane. No, risponda. Che è solito consumare pulciandosi vicino a un copertone appeso a una fune legata da un baobab. No, sua madre gli vorrà pure bene. Certo, ma ci mancherebbe, Spedia. Io a Salerno ho introdotto la virgola. Ma no, non è vero. È un genio. Federico, tu che fai oggi alle 9? A mattina guarda 5. Caso, parliamo ancora di vitalizi. La cosa bella dei vitalizi sono le giustificazioni di chi ce l'ha e non vuole rinunciare. C'ho i figli disoccupati, c'ho il mutuo da pagare, se solo loro avessero questi problemi e avessero bisogno di una pensione a vita. Vabbè, che devi fare? Va bene, io vi devo salutare, Federico Novella e Veronica Gentili, alla prossima! Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. Tira il fiato oggi un Giro d'Italia che ha già trovato il suo grande dominatore. Sentiamo. giorno di riposo l'ultimo al Giro d'Italia, tempo per recuperare forze ed energie mentali, sosta anche per tirare il fiato e riordinare i pensieri. Contadore è andato a riposo con la sua bella maglia rosa al sicuro. Anche ieri sul traguardo di Campiglio ha vissuto una giornata di assoluta grazia, dove ha fatto tutto quello che ha voluto con la forza dei campioni e la lucidità dei fuoriclasse. Aru e la sua stanno l'hanno portato a spasso, ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per mettere in difficoltà il pistolero e a dimostrare quanto, diciamo, sono lì da vedere i distacchi. Basta vedere quanti sono arrivati con Aru, Lande e Contador e dove sono finiti gente come Urán e Port. È un giro in pratica chiuso, finito e definito. Mancano solo alcuni dettagli. Contador è il degno vincitore di questo giro. Fabio Aru è il suo degno rivale. Va definito il terzo gradino del podio, mancano solo alcuni dettagli. Questa ultima settimana non sarà altro che una passerella trionfale per lo spagnolo dalla tripla corona, campione di assoluta grandezza, per tutti gli altri un motivo per dare un senso al loro giro. Piero Augusto Stagi, Redo 24, Sole 24 Ore, Madonna di Campiglio. Voci dal Giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente, vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroën Berlingo. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, dai che è lunedì e io cerco di abbattere il microfono qui. Vi ricordo che oggi parleremo un po' di immigrazione, ancora del caso del tunisino Abdelmajid Twil. Avremo Alessandro Robecchi, giornalista, spesso nostro ospite. Avremo Massimiliano Fedriga, che è il capogruppo della Lega Nord alla Camera. Poi parleremo anche di quello che è successo in Trentino. Avremo Eva Klotz. Sapete che Eva Klotz è una di quelle che probabilmente, quando avrà visto il tricolore a mezz'asta a Bolzano ieri, avrà gioito, no? Eva Klotz si considera austriaca, non italiana. Sarà nostra ospite, leader del partito Südtiroler Freiheit. E allora, dalle 8:40... intanto state con noi, perché adesso che facciamo? Leggiamo i giornali. In questo lunedì 25 maggio siamo qui con il Sole 24 Ore che apre sul divorzio breve, al via da domani. Il titolo però non è rassicurante: al via il divorzio breve, rischio caos nei tribunali, possibili 200.000 domande. Mentre lo sguardo degli altri giornali è più su un fronte internazionale, il Corriere della Sera si concentra sulla Spagna, la protesta scuote la Spagna, mentre gli altri quotidiani su Atene. Repubblica, Atene, finiti i soldi, non paghiamo i debiti, incubo Grexit nell'Unione Europea. Il Messaggero, Grecia, soldi finiti, trema l'euro. La Stampa, la Grecia, l'Unione Europea, non pagheremo. Mentre il Giornale, Berlusconi oltre i partiti. Vedremo però altre notizie. Voglio subito, visto che siamo in ritardo, tuffarmi nella lettura di alcuni articoli, a cominciare sempre con uno sguardo internazionale dall'Irlanda. Sapete che in Irlanda nel weekend si è votato il 62% con referendum popolare, ha detto sì alla legge che modifica la Costituzione e inserisce anche le nozze omosessuali. E si dice nella cattolicissima Irlanda, tutti ora a guardare che succede in Italia. Beh, in Italia c'è da dire che il vice di Renzi e Partito Democratico Lorenzo Guerini dice le unioni civili saranno approvate da noi entro fine anno. Nella legge italiana è bene da dire non c'è il matrimonio, non l'hanno chiamato così, tra omosessuali, ma le unioni civili. Lorenzo Guerini intervistato dalla Stampa, pagina 9. Il Partito Democratico e il governo intendono concludere la discussione del provvedimento sulle unioni civili entro l'estate e poi nel giro di pochi mesi arrivare all'approvazione definitiva di una legge che ha recepito istanze diffuse sia nella società che nel Parlamento. Dunque, paradossalmente, dall'Irlanda viene questa accelerazione anche per l'Italia. Tra l'altro la Stampa ospita anche il parere di Monsignor Mogavero. Monsignor Domenico Mogavero, commissario CEI per l'immigrazione, dice non va ignorato nel nostro paese anche questo spirito. In Italia non si può far finta che le unioni gay non esistano e che non ci siano diritti da riconoscere a queste coppie. Fa parte Mogavero di quell'ala della Chiesa che anche in Irlanda è uscita fuori, incarnata nell'arcivescovo di Dublino, Dermuid Martin, che ha detto non si può negare l'evidenza di una società che è cambiata. Fa parte anche Monsignor Mogavero evidentemente di quell'ala della Chiesa considerata un po' più aperta e considerata disponibile a trattare su questo tema, tanto che sia il Corriere che Repubblica raccontano di quello che viene definito oggi un summit sulle coppie gay. Il Corriere della Sera, eccolo qua, Gian Guido Vecchi a pagina 13, riflessione in Vaticano, la possibile apertura a un codice dei diritti. Non è più il tempio delle barricate, scrive Vecchi, semmai è quello della riflessione, niente panico, la mentalità è profondamente cambiata, ma non per questo i credenti devono lasciarsi intimidire da quelle che vengono viste come sconfitte, né perdere l'entusiasmo e la gioia del Vangelo. Così il teologo Bruno Forte, confermato dal Papa, segretario speciale del Sinodo sulla famiglia. Si tratta di un processo, dice Forte, culturale di secolarizzazione spinta nel quale l'Europa è pienamente coinvolta, e per questo l'atteggiamento della Chiesa è oggi all'Università Gregoriana un seminario teologico a porte chiuse organizzato in tutta riservatezza dagli episcopati di Germania, Francia e Svizzera per parlare anche di temi come questi, certamente temi controversi. Vi sottopongo il commento di Giuliano Ferrara in prima pagina oggi sul Foglio. È un commento ovviamente polemico. Ferrara, da sempre contrario a quello che definisce nichilismo, inizia così: siamo tutti mamme irlandesi, non conta quel che penso io, siamo tutte mamme irlandesi, celebriamo con entusiasmo la vittoria del yes al matrimonio gay insieme con tutti i partiti Irish e con le opinioni nobili, giovanili, progressive e altre meravigliose certezze coltivate in tutto il mondo occidentale nel segno dell'eguaglianza, della libertà e dell'amore. Dice più avanti Ferrara: siamo in pochi a considerare tutto ciò ingiusto, sputtanati dai cretini omofobi, dai residui insopportabili di vecchie culture discriminatorie. Irlanda a parte, l'ideologia LGBT dilaga come testimonianza di una nuova lotta alla schiavitù. Si fa programma scolastico, si sottrae al controllo della ragione, si festeggia contro gli intrusi, quelli che vogliono saperne di più, magari capire che senso abbia l'autodefinizione sessuale come ultimo capitolo dell'autodeterminazione culturale e politica. Non tengono più le costituzioni, le corti supreme, le leggi, i referendum vinti da preti e laici contro scientisti e nuovi faustiani. Si smantella tutto quello che c'era prima, al suo posto si mette quel che viene dopo. È la logica del nichilismo, bellezza, e non puoi farci niente. C'è solo da sperare che a correggere noi sterilizzatori della tradizione non arrivino i ripopolatori islamici del mondo. Lo farebbero con scarsa grazia. Così chiude il suo editoriale Giuliano Ferrara. Associare a questa vicenda delle unioni omosessuali la questione dell'apertura del Sole 24 Ore non c'entra nulla, c'entra solo il fatto che la famiglia è il tema che li accomuna. Oggi il Sole 24 Ore apre con questi dati anche un allarme sulla questione sul divorzio breve, che è al via domani. L'allarme è perché i tribunali non sono pronti, come racconta molto bene Antonello Cherchi, a subire quello che potrebbe essere un'invasione di 200.000 cause stimate, 200.000 coppie che vorrebbero approfittare da domani della possibilità del divorzio breve. Gli addii lampo che i coniugi sono pronti a pronunciare da domani mal si conciliano con l'organizzazione degli uffici giudiziari. Così Antonello Cherchi inizia subito l'articolo di pagina 3 del Sole 24 Ore. Nei tribunali in questi giorni è salita la preoccupazione per le nuove norme sul divorzio breve, in particolare le migliaia di procedimenti pendenti che potrebbero chiedere il rito accelerato. Secondo le proiezioni sulle cause iscritte presso i tribunali, si tratterebbe dai 180.000 ai 200.000 fascicoli di separazione pronti ad abbandonare il binario dei 3 anni, cioè il tempo finora necessario per chiedere il divorzio, e utilizzare la corsia veloce dei 6 mesi o di 1 anno. Giustamente tutti coloro che hanno iniziato una causa col vecchio procedimento da domani dicono: vogliamo passare al divorzio breve. I conti sono presto fatti, gli ultimi dati del Ministero della Giustizia dicono che ci sono 69.000 cause di separazione congiunte nel 2013 iscritte, e l'anno dopo più di 66.000, tutti procedimenti che al momento potrebbero aver maturato i 6 mesi necessari per accedere al divorzio breve. Già questo, si tratta di 135.000 fascicoli. C'è anche una mappa della geografia delle divisioni, regione per regione, tribunale per tribunale, come cambiano i numeri dei matrimoni in crisi nelle regioni, così sul Sole 24 Ore a pagina 3. Ma eccoci qui all'articolo che ci fa tenere già di lunedì ben strette le mani sul volante se siete alla guida, e far appoggiare ovviamente tutte le tazzine bollenti di caffè o caffè latte. È l'apertura del secolo XIX, è un'anticipazione molto interessante. Avevamo detto che la scorsa settimana l'antimafia stava indagando sui possibili nomi di impresentabili nelle liste delle regionali. Manca una settimana al voto. Candidati con troppe ombre, eccolo qua al secolo XIX, Liguria, antimafia shock, ombre su 3 candidati. Ma ovviamente Marco Menduni, a pagina 2 del secolo, si concentra sulla Liguria, ma la vicenda riguarda tutta Italia, o meglio, dove si va a votare, e cioè l'antimafia avrebbe stabilito che ci sono 3 incandidabili in Liguria, 6 in Puglia, 4 in Campania. I nomi al momento sono top secret, con la presidente dell'antimafia Rosi Bindi che dice fino a martedì, cioè fino a domani. Tutte le indiscrezioni sono prive di ogni fondamento, ma l'anticipazione del rapporto della commissione parlamentare del secolo XIX dice che ci sarebbero appunto 3 in Liguria e oltre altri nelle varie altre regioni di impresentabili. Si so se sono impresentabili, si possono gentilmente sapere i nomi? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan e il Berlusconi delle informazioni. Ribio. E vabbè, ci sono anche i matti ed è lunedì. Scherzo, caro ascoltatore, un grosso abbraccio ovviamente. Allora, noi parleremo ancora del caso di questo immigrato marocchino, non si capisce bene, clandestino sicuramente, ma che dalla Tunisia dicono certamente è lui che ha commesso, che ha preso parte all'attentato al Bardo a Tunisi, e lui dice invece sono in carcere inutilmente. Ma il tema immigrazione, sapete che è uno dei temi che anche in questa campagna elettorale, parliamoci chiaro, viene più sfruttato. Ci sono 2 articoli interessanti che vi voglio segnalare. Il primo è del Corriere della Sera. Giuseppe Guastella racconta tribunali intasati dai ricorsi dei migranti, è pagina 18 del Corriere. Come detto, l'onda lunga degli sbarchi delle carrette del mare percorre lo stivale, fa impennare il numero delle richieste di asilo politico. Ma soprattutto cosa succede, racconta Guastella? Che il 40% solamente in media di coloro che fanno richiesta vengono accettati come persone che hanno diritto allo status di profugo o di rifugiato. E allora che succede? Che quando viene respinta la domanda fanno ricorso. Perché fanno ricorso? Fanno ricorso perché in genere questo blocca la procedura di espulsione, garantendo un buon periodo di permanenza in Italia grazie a una lunga teoria di procedimenti giudiziari. E poi fanno ricorso anche perché il diritto lo concede e spesso i ricorsi vengono accettati. Dato di fatto, da una 20 al mese che erano i ricorsi nel 2013, a Milano sono decollati 632 in tutto l'anno 2014, per arrivare ai 42 al mese di media nel gennaio scorso, 70 a febbraio, fino a 100 ricorsi a marzo. E dunque la previsione è che nel 2015 saranno 3.000 in Lombardia, 2.000 a Milano, il resto a Brescia. Insomma, a Milano si intasano di ricorsi di migranti questi i tribunali in Milano e in Lombardia. Tra l'altro, parallelamente, continua il racconto che Niccolò Zancan fa sulla stampa di storie di questi migranti. È un racconto a puntate sulla stampa, molto interessante, perché uno poi conosce volti, storie, vicende personali. Grazie Italia, pianto pomodori e guadagno 2,30 euro l'ora. È un viaggio a Foggia tra i nigeriani ospitati nel centro immigrati che lavorano, anche lavorano. Giustamente Nicolò Zancan racconta il suo nome, per esempio è Balde Alassane ed è uno schiavo, ma non lo sa. Ogni mattina alle 4:40 esce dal cancello del centro per richiedenti asilo di Foggia, aspetta il suo uomo che arriva su una Hyundai grigia, si chiama Hassan, tunisino, è un caporale, vuole 5 euro a viaggio per portarlo al lavoro nei campi. Foggia in realtà dista 20 chilometri, siamo nella piana di Borgo Mezzanone, campagna, miseria, sole che picchia, ci sono già 36 gradi alle 12 di questi tempi. In questo periodo lui, Balde Hassan, deve interrare le piantine di pomodori. Ogni cassetta di polistirolo ne contiene 240 e per ogni cassetta mi danno un euro, dice piegato sul campo. Oggi con questa sono riuscita a fare 24 casse. Non mi pagano subito, ma dopo 15 o 20 giorni li prende Hassan, il tunisino, e li dà a me. Il conto economico alla fine è questo, 2,30 euro l'ora. Lo trovate sulla stampa. E poi che dire, per carità è un'inchiesta, bisognerà vedere, ma l'inchiesta sull'accoglienza. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 19 del Corriere, l'ennesima inchiesta di possibili persone che hanno lucrato sui migranti. Questa volta i soldi per i profughi finivano sui conti correnti intestati alla Caritas. L'Onlus, un'ala di riserva, e i suoi responsabili Alfonso De Martino e la sua compagna Rosa Carnevale sono stati arrestati. L'accusa di peculato è arrivata anche al direttore regionale della Caritas, Don Vincenzo Federico. Questa è l'accusa. I soldi ai profughi finivano su conti controllati da lui. Per la verità, Don Vincenzo Federico si difende. Intervistato da Fabrizio Caccia, dice: guardi, qua i finanzieri mi hanno perquisito l'ufficio, mi dicevano stai tranquillo e ora sono accusato di peculato. Mi sarei appropriato di 109.000 euro destinati ai migranti, ma io non mi sono appropriato di niente. Addirittura ora chiediamo prestiti da ogni parte per continuare a dar da mangiare a questa gente, visto che l'ultimo assegno erogato dalla prefettura di Salerno per finanziarci risale al 31 gennaio scorso. Ma le accuse sono molto molto pesanti, le accuse è quella di aver lucrato sull'accoglienza di queste persone. Va bene, la politica è tutta incentrata su Salvini, che ha la svolta nazionalista. Ieri era al Piave, andrà poi sul Po, al famoso rito dell'ampolla eccetera, ma per il momento, racconta Marco Cremonesi, ieri era sul Piave. Il Salvini nazionalista, il mormorio centenario del Piave cancella il tintinnar d'ampolle come dell'acqua del Po. È la svolta nazionale dell'ormai ex secessionista Salvini, che così si completa alla sua maniera, però senza buttare via nulla, perché se ieri il 24 maggio il capitano leghista ha affidato al Piave una corona d'alloro, questo non gli impedirà il 18 giugno di tornare a Pontida, là dove si giurò di difendere la libertà dei popoli padani dal potere romano. Come si concilia il sangue versato nella grande guerra con i tradizionali ideali padani? Beh, questa è la domanda che si pone anche il Corriere della Sera a pagina 10. Tra l'altro si racconta di come invece a Bolzano, per ordine del presidente della provincia autonoma, Compaccer, siano stati messi a mezz'asta i tricolori, perché non c'era nulla da celebrare per lui per il centenario dell'inizio della Grande Guerra, visto che gli sconfitti, gli austriaci, evidentemente si sentono più vicini agli austriaci, e ecco allora che le bandiere erano a mezz'asta. E così racconta il Corriere questo è successo. Noi ne parleremo con Eva Klotz, indipendentista, ospite alle 8:40. In tutto questo ieri è ricomparso Silvio Berlusconi, è ricomparso in TV per la prima volta da Fabio Fazio. Io non l'ho vista, devo ammettere. I giornali però raccontano di una comparsata un po' e di un colloquio un po' sottotono, sicuramente misurato, non che ne so, chi ha visto il famoso Berlusconi da Travaglio e Santoro non pareva riconoscere anche la verve di Berlusconi mancata, ma Fabio Fazio è anche uno meno aggressivo. In ogni caso, Berlusconi nel salotto di Fazio ha parlato un po' tutto tondo, ha parlato di una convention per l'erede di centrodestra, ha detto non ci sono eredi al momento, nessuno si è fatto vivo, ha detto che lui perde rispetto al PD a Salvini per un semplice fatto, che il PD è con Renzi e la Lega con Salvini vanno in TV 6 ore a settimana, mentre lui nell'ultimo anno in TV non ci è andato, il che vuol dire che gli italiani votano grazie alla TV. Questo è l'elogio agli italiani, peraltro un po' è anche vero. Comunque ha parlato a tutto tondo Silvio Berlusconi di quello che succederà. Il mio erede non c'è, si faccia vivo presto, questo è il titolo del giornale a pagina 3. Il consiglio di Feltri, che è intervistato dal Fatto Quotidiano, Vittorio Feltri dice a Silvio Berlusconi: intanto volete sapere come lui chiama il cerchio magico? Lui lo chiama cerchio tragico. È un po' stanco, annoiato, non vuole stare a Roma perché è un milanese verace e fa le valigie col suo cerchio tragico e se ne va. E poi Vittorio Feltri boccia l'idea del Partito Repubblicano, lo definisce che orrore il Partito Repubblicano. Usa poi la metafora del salame, cosa che aveva già fatto in passato. Il salame è questo, il centrodestra era un salame molto lungo che poteva affamare decine di politici e milioni di elettori, ma Casini, Fini, Alfano e Fitto ne hanno preso tutti un pezzo e a Silvio è rimasto il culetto, che gli può piacere ma non sazia. Questa è la metafora del salame di Vittorio Feltri. A proposito di salame, no, Mauro Meazza, buongiorno. No. Buongiorno, basta che non mi facciate affetti, ma va bene. Sì. Sì, no, ho sentito tutte queste, come dire, queste metafore gastronomiche, mi sembra giusto, nel periodo di Expo che siamo tutti molto attenti agli alimenti, ma casomai facciamo una bella indagine, perché non so se hai colto oggi, abbiamo questa cosa sul Sole 24 Ore, Valeria Uva ha calcolato, ha visto quante indagini conoscitive si fanno in camera, alla Camera e al Senato, e se ne sono aperte 114. Quindi c'è una febbre di conoscenza lusinghiera, è che si concludono un po' pochino, perché ne risultano chiuse 14. Possiamo aver sbagliato di qualche unità, non pretendiamo di avere un'infallibilità, però certo fa un po' specie. Ma se vuoi comprendere tutto questo, leggi Valeria Uva sul Sole 24 Ore di oggi. Tra l'altro c'è anche una cosa interessante, sai che siamo in stagione di dichiarazione dei redditi. Come no? Hai visto il 5 per 1000 che quest'anno compie 10 anni, noi gli facciamo anche tanti auguri. Auguri al 5 per 1000, che però a furia di ridurre i fondi è diventato un po' 4 e qualcosa per 1000. Te lo spiega Valentina Meris, ma anche Silva, per come è questo giochino che tu devolvi, indichi la tua devoluzione, ma in realtà poi il fondo è stato ridotto. Onor del vero, si è cercato di mediare in legge di stabilità, con l'ultima legge di stabilità, ma gli effetti si vedranno solo più avanti, e quindi insomma il 5 per 1000 un compleanno un po' a dieta, si sia un pochino ristretto, sì. Del divorzio già abbiamo parlato, ti ricordo che ci sono ormai quindi più modi, si può andare dal sindaco, si può fare una negoziazione assistita, ma è tutto spiegato sul Sole 24 Ore, puoi mostrare la pagina, così come puoi mostrare agli ascoltatori gentilmente anche la nostra infodata, ecco, sugli immobili, ecco, mostrala. Più avanti c'è anche una tua foto oggi sul Sole 24 Ore. Mettiamo via il giornale. Sì. L'abbiamo fatta mettere appositamente, un po' piccola per stuzzicare la curiosità degli ascoltatori, ma anche delle ascoltatrici. E, attenzione al riuso dei sottotetti. Caro, sembra facile di utilizzare un sottotetto, ma se leggi oggi Sole 24 Ore su norme e tributi, ti spiegano che devi considerare tutta una serie di vincoli per non incorrere in qualche violazione, chiamiamo così. C'è addirittura il rischio del reato, ma adesso non mettiamola giù sul tragico. E invece, naturalmente, c'è l'esperto risponde, è lunedì, hai visto l'esperto risponde? Ecco. l'esperto risponde che questa settimana, oltre a regalare un ebook, come ormai facciamo da diversi lunedì, dedicato all'IMU e alla TASI, sì, ma ne parleremo, caro, di IMU e TASI, arriva il momento dell'IMU e la TASI, parliamo anche di auto e di noleggiare l'auto anziché comprarla. E perché te ne parlo ora? Chissà. Proprio in questo momento? Perché devo dirti: traffico! Alessandro Milan, il master chef dell'informazione mattutina, taglia, trita, affetta, mescola, sminuzza, impasta, ed ora tenetevi forte sul volante. Alessandro Milan, canta! Canta. Non più, devo fare un appello. Oggi chiamo Massimo De Manzoni. Perché a Libero non pubblicano più le parodie delle canzoni? Se le ripubblicano io torno a cantare. Che devo fare? Però per il momento, vabbè, Libero oggi manco in edicola. Comunque, la Grecia torna in primo piano, perché ieri, con la voce di un ministro, Nikos Voutsis, ministro dell'interno, hanno detto chiaro e tondo: Atene non pagherà le rate del prestito del Fondo Monetario perché non ci sono i soldi. Le quattro rate per il Fondo Monetario a giugno ammontano a 1,6 miliardi. Questo denaro non sarà versato perché non c'è. Così il ministro dell'Interno, in maniera molto molto semplice e secca, dice: ci sono solo i soldi per stipendi e pensioni, la prima scadenza è il 5 giugno della rata, poi 12, 16, 19 giugno, queste rate Atene non le rispetterà e non darà indietro i soldi. Ecco allora che tutti a dire: ma è una partita di schermaglie. Secondo alcuni, sempre il Corriere a pagina 3, in realtà la Grecia cederà alla fine in cambio però di cosa? Di nuovi aiuti. Dall'altra parte l'Europa chiede le famigerate riforme che Atene non annuncia e non vuole fare. Sta di fatto che Luigi Zingales, economista, viene intervistato dal Giorno a pagina 3 da Giorgio Caccamo, dice: la crisi greca è molto semplice, l'Europa non sa proprio come risolvere i problemi. Così lapidario Zingales, economista professore a Chicago, dice: il rischio Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro, o di default, ora è molto concreto. E che succede se c'è questo default? Beh, se Atene esce dall'euro, dice Zingales, il contagio ci sarà sicuramente, ma è un contagio psicologico, è sempre così. Se gli italiani vedono file di greci agli sportelli delle banche, certamente si faranno condizionare, faranno la stessa cosa, come a Cipro. La situazione è incerta, se la Grecia fa default l'Italia rischia come tutti gli altri con i suoi 40 miliardi di esposizione. Altro che bocciatura europea della reverse charge, non sono 700 milioni di IVA a fare la differenza, dice Zingales. Guardate invece questi 40 miliardi di esposizione dell'Italia in Grecia. Vabbè, staremo a vedere se sono schermaglie oppure no. C'è solo nel pieno della pubblicità il tempo per citare alcune cose, e cioè scade domani il CDA della RAI e Renzi e il governo pensano a una sostituzione con un amministratore delegato donna. Beh, intanto per il momento dovrebbe rimanere ancora Luigi Gubitosi, una sorta di prorogazio, anche se lo stesso Gubitosi non vede l'ora di chiudere baracca e burattini, così racconta almeno Claudio Marincola sul Messaggero. Chi si pone in pole position sul Messaggero come successore? Marinella Soldi, che attualmente è amministratore delegato di Discovery Channel, oppure Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, le due donne che sono date come possibili successore di Luigi Gubitosi. Ma si parla anche di ruoli per Antonio Campo Dall'Orto, Andrea Scrosati, attualmente a Sky, e Vincenzo Novari, di numero 1 di H3G, plenipotenziario del gruppo cinese Hutchinson One Point Italia. Questi sono i nomi, la cinquina, ma Renzi penserebbe a una donna, quindi soprattutto le due donne. Poi Luigi Ferrarella racconta sul Corriere della Sera, pagina 21, attenzione amici che twittate: Gasparri andrà a processo per un tweet il 21 settembre. Comparirà davanti al giudice di pace di Pavia per avere ingiuriato, questa è l'accusa, ingiuria nei confronti, in uno scambio di tweet molto complesso con il professor Puglisi, che è spesso nostro ospite, uno scambio di tweet con al centro il ruolo di Ciampi. Su Ciampi, il ruolo, la lira, la mafia. A un certo punto Gasparri twittò in maniera un messaggio privato a Puglisi: ignorante, presuntuoso, fai vomitare. ingiuria, accusato, sotto processo. Arriva l'ingiuria via social network, a Pavia il primo processo per un tweet. Gasparri a processo. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo sempre sul Corriere della Sera, dove Elena Tebano, per un'intera pagina, intera del Corriere, pagina 27, racconta di avere provato per 11 giorni il beverone Soylent che sostituirà, secondo il suo produttore, il cibo nel futuro. 11 giorni di prove di beverone raccontate sul Corsera. Ma chi se ne frega! Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che te pozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8:21 minuti. Vogliamo tornare come punto di partenza alla vicenda dell'arresto di quel tunisino, di quel marocchino, anzi, marocchino di 22 anni, Abdelmajid Touil, che è stato fermato alle porte di Milano ed è accusato di far parte dell'attentato, del comando dell'attentato al Bardo a Tunisi. E da Tunisi giurano non c'è stato alcuno scambio di persona. È lui che ha fornito supporto logistico ai terroristi dell'attentato al Bardo. E è lui, come aveva twittato subito il presidente del Consiglio Matteo Renzi, grazie alle forze dell'ordine che hanno arrestato in Lombardia uno dei ricercati della strage di Tunisi. Aveva twittato, sapete che Twitter è questo strumento tecnologico usato da molti. Ancora più enfatico era stato Alfano, ancora una volta siamo stati più forti noi. Oppure anche l'opposizione, soprattutto i partiti che sul tema dell'immigrazione certamente sono i più attenti. Giorgia Meloni, dopo l'arresto del terrorista, si dimetta. Chi del governo ha negato il nesso terroristi sbarchi? O ancora Salvini, Salvini ve lo facciamo sentire in audio. Bello spot per Expo e per l'Italia nel mondo, a pochi chilometri da Expo, un terrorista che è accusato di aver partecipato alla strage di Tunisi. A questo punto un governo di persone normali, non intelligenti ma normali, blocca gli sbarchi e procede all'espulsione di tutti quelli che sono in Italia senza titolo. Allora, è vero, siamo in campagna elettorale, questo non dimenticatelo, ma vi voglio chiedere, vi piace questo approccio a un tema così importante, delicato, difficile sicuramente da gestire come quello dell'immigrazione? Allora, c'è un collega giornalista che è spesso anche nostro ospite, Alessandro Robecchi, sul Fatto Quotidiano ha scritto: in Italia c'è troppo cattivismo, siamo malati di cattivismo, no? Quelli che dicono io li ammazzerei tutti. È una frase che vola veloce di bocca in bocca, uso questa licenza poetica, anche se forse Robecchi utilizzare De André per questo non ti garba molto. Comunque, citazione, colta, bravissimo. Che vuol dire il cattivismo? Ma guarda, io riscontro, ma come possono fare tutti, basta accendere la radio, la TV o guardare i social network, insomma quello che facciamo tutti, che frasi come appunto io li ammazzerei tutti, ah meno male che affondano coi barconi, ah bene, arrestiamoli tutti, cacciamoli a calci nel culo, che una volta si dicevano, diciamo così, un po' vergognandosi, sottovoce, insomma si dicevano soprattutto sapendo con chi si parlava e stando attenti che si parlasse con qualcuno che la pensava così, sì. Ecco, queste frasi, diciamo, un po' vergognose, adesso sono state in qualche modo sdoganate e sono di non normale, pronunciate normalmente nei talk show, cioè in pubblico, diciamo. Questo no? È il cattivismo che questo sempre... è un cattivismo che non è difficile da spiegare, che diciamo un paese impaurito per molti motivi, la crisi economica, l'incertezza del futuro, eccetera, eccetera, come si sa dall'alba dei tempi, cerca un capro espiatorio con cui essere cattivo. Un no? nemico. Come allora, se noi picchiando il giovane Tuil risolvessimo dei nostri problemi. Cosa no, questo no, cioè, c'è da dire che però, ma voglio presentarti un altro ospite, c'è da dire che questo Tuil, bisognerà vedere poi le accuse, di certo rimane una persona che è entrata illegalmente nel nostro paese, su questo sì, non si certo. discute, visto che ha un decreto di espulsione. L'ospite che ti presenta è il capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati, Massimiliano Fedriga, buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Anche perché la Lega, sicuramente lo sa meglio di me, Fedriga, è accusata di essere una delle forze politiche che più su questo tema, usando le parole di Robecchi, potrebbe essere, è cattiva, insomma, usa questo cattivismo. Le faccio sentire Renzi, sa che Renzi di recente ha detto questo, senta, senta cosa ha detto. Cioè, ogni mattina però Matteo Salvini si alza, questo. Deve scegliere la felpa e deve andare a dire qual è la cosa oggi che va male, c'è un barcone che è andato in acqua, c'è qualcosa su cui posso chiedere, tanto per cambiare, le dimissioni di Alfano, salvo poi Salvini farci gli accordi con Alfano, ma questo è un problema loro, contenti loro, contenti tutti. Insomma, Renzi dice, Radamentana, Matteo Salvini si sveglia, ha bisogno di un barcone su cui fare qualche dichiarazione. Fedriga. No, ma è strano che il Presidente del Consiglio, invece di cercare di dare risposte ai problemi che ha creato la politica, devo dire anche del governo precedente Letta, quella Renzi, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, pensi alle felpe di Salvini. Se noi denunciamo una politica sbagliata che sta facendo danni ai cittadini del nostro paese sicuramente, ma anche alle persone che arrivano sul territorio nazionale su questi barconi, perché ricordo dall'inizio di Mare Nostrum sono aumentati le morti in mare, non diminuite. Ovviamente il problema è suo. È chiaro che noi abbiamo fatto controproposte dicendo che chi viene nel nostro paese legalmente e rispettando le regole ben accetto, chi arriva legalmente deve essere fatta rispettare la legge. Tuil, ricordo che adesso non entro nel merito delle indagini, si vedrà cosa succederà, però era fra i 4.000 non graditi in Europa, che sono quelli che hanno commesso reati precedentemente o che insomma non, l'Europa non vuole sul suo territorio. A questo gli è stato dato il foglio di via e circola liberamente in territorio nazionale. No, ma addirittura vado a una scuola. Ma che risponde alle accuse di cattivismo? Qui c'è Robecchi che ne fa un'accusa, immagino specifica anche nei confronti della Lega, di quei partiti che soffiano sul fuoco, no, del tema immigrazione. Siete cattivi? Vi conviene elettoralmente, Fedriga? Il cattivismo è l'esatto opposto, cioè sono quelli che favoriscono l'immigrazione clandestina, sono quelli che, per esempio, le cito il caso di Udine, in una villa in una villa tutelata da Belle Arti veneta, vogliono alloggiare martedì una ventina di immigrati clandestini. È quello che crea il disagio nella gente, non è chi denuncia questo problema. Noi dobbiamo distinguere, infatti, chi denuncia il problema non è quello cattivo, è quello che vuole affrontare il problema. Dopo qualcuno può non piacere come lo risolviamo, sì. Ci presentino un'altra proposta. No, il problema è che la proposta è l'invasione incontrollata. Tra l'altro, io devo dire, messaggi ne arrivano tanti, sono uguali, e Alessandro Becchi, sono tutti di numeri diversi, ma i nostri ascoltatori, ma il tenore è questo. Guarda, tutti uguali, non siamo cattivi, ma uno dice non siamo cattivi è che manca giustizia, o siamo cattivi perché non c'è più giustizia, oppure ci sono quelli più spinti. Il paese non è che ha paura, si è rotto, e puoi immaginare il seguito, no? La gente si è rotta. Sì, sì. Ma certo, ma è comprensibilissimo, è un fenomeno, è un fenomeno psicologico banalissimo, cioè la gente è impaurita, ha paura e quindi si trova un nemico, il nemico lo trova in Majid. Vorrei dire due cose su quello che ha detto Fedriga. Sì. Non è vero che con Mare Nostrum sono aumentati i morti in mare, anzi dopo che è stato rimosso Mare Nostrum e si è passati a Triton, allora sì, sono Mare aumentati i morti in mare. Esatto, punto primo. Punto secondo, ma questo qua con il decreto di espulsione, intanto reati precedenti, no, pare di Beh, però al decreto di espulsione c'è, se ce l'aveva. E anche scandalo andava a scuola, quindi riassumiamo, se vengono qua e rubano non va bene, ovviamente, nemmeno a me, se vengono qua e vanno a scuola per imparare l'italiano, tra l'altro con una madre con il permesso di soggiorno, una famiglia stabile con il permesso di soggiorno, lui è arrivato qua, non è andato a fare la rapina a mano armata, è andato a casa della mamma e viveva lì e andava a scuola. Questo quindi mi sembra, come dire, un atteggiamento da incoraggiare se veramente abbiamo paura dell'invasione. E poi altro punto, appunto, sempre per sottolineare come sono importanti le parole dell'odio, non c'è nessuna invasione, diciamolo questo, non c'è nessuna invasione del territorio nazionale, adesso che fanno i nazionalisti, sì, di sì, colpo vanno sul piano. Ecco, quindi diciamolo questo, perché altrimenti diventa, come tu sai, che una menzogna ripetuta infinite volte diventa una verità. Non è vero. Qua poi sui termini invasione o non invasione, i numeri diciamo sono quelli. Federica, perché voi soffiate su fuoco utilizzando queste parole, che effettivamente dire che c'è un'invasione di immigrati forse è un po' troppo, ecco, diciamo. No, però io invito, perché guardi, è facile parlare fra di noi e dire che è tutto a posto, non c'è l'invasione, però ad andare un po' nelle nostre città, ci sono delle città che sono, no, perché io vivo su Saturno, no, Federica, io non ci sto evidentemente città. Cioè io, no, secondo lei dove sto a Los Angeles, non sto nelle nostre città, insomma, Rebecca è di Milano e quindi lo vede. Aspetta però, ma perché tu, ma che in radio parliamo una alla volta, no, perché un'altra di quelle frasette buttate lì. Vabbè un attimo Federica, evidentemente gira poco, perché guardi, le faccio dei casi concreti. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, prima l'ho citato Udine, le ricito di nuovo quella città, vada in centro ad Udine e veda che ci sono accampati più di 150 immigrati clandestini fuori dalla prefettura. Ma una politica non dovrebbe dare la risposta, cioè risolvere questo problema, perché metterla in centro città? Ma molto semplice, perché i clandestini non possono stare sul territorio nazionale. I dati del Viminale dello scorso anno, su 170.000 arrivi, intanto 45.000 non sappiamo chi sono perché non sono stati registrati. È stata sgomberata un centro islamico dove avevano occupato abusivamente dei clandestini, su 33 trovati dentro solo 6 erano stati identificati. 27 non sapeva da dove venivano, e questa è la sicurezza nazionale, ed è per quello che parliamo di invasione, perché c'è l'anarchia totale sulla gestione dell'immigrazione. Ma qui il problema è perché la politica non sa gestire le questioni. Oggi il Corriere della Sera racconta effettivamente che ci sono i tribunali della Lombardia intasati da cause di chi può fare la richiesta per ottenere lo status di profugo rifugiato, viene respinta questa richiesta, cosa fa? Fa ricorso perché è legittimo far ricorso, e risultato: tribunali intasati, cioè laddove c'è un sistema che non funziona nel gestire le domande in maniera, in tempi certi, ecco che allora poi si trovano 100 persone ad accampate nel centro di una città. Sì, ma perché in Spagna e in Grecia non avviene? Non è che sono paesi che stanno nel mare del nord. Lei dice perché non li fanno entrare? Non li fanno entrare. Evidentemente c'è una politica diversa: si apre le porte a tutti indistintamente, si favorisce l'immigrazione economica, perché stiamo parlando principalmente di un'immigrazione economica. Non sono persone che scappano da guerra, o meglio, una minoranza sono persone che scappano da guerre. Non a caso, se vedete i numeri, la stragrande maggioranza sono giovani maschi. Però mi dica, Federica, la soluzione qual è? Perché quando sento Salvini dire bloccare gli arrivi, cioè è una frase che uno è facile dire, bloccare gli arrivi, che vuol dire? Bombardiamo le navi, le respingiamo come volevate fare voi, e dove le mandiamo? Guardi, noi abbiamo preso spunto non dal manuale del perfetto leghista, abbiamo preso spunto a quello che ha detto la NATO, quello che hanno detto diversi organismi internazionali, ma ci sono due operazioni da fare. Il primo, andare, su quello ci auguriamo che ci vengano dietro, affondare i barconi prima che partano, ovviamente, sì, vuoti, sì, per non dare, e ci vuole la risoluzione dell'ONU, e lì ci vuole la risoluzione. Secondo, dell'ONU, ci vuole blocco navale stesso dalla NATO, ci hanno preso in giro quando l'abbiamo detto, adesso la NATO dice la stessa identica cosa, perché è una di quelle soluzioni che si possono mettere in atto, e si toglie anche il finanziamento agli scafisti che finanziano il terrorismo. Però Federica, il blocco navale, ma se questi poveracci muoiono nel deserto del Chad, per esempio, per andare in Libia perché c'è un blocco navale, cioè quindi non li vediamo e chi se ne frega? No, beh, infatti stavo dicendo, la terza soluzione, incominciare a fare dei seri investimenti ed aiutarli nei paesi di origine. In Nigeria, faccio un esempio, che non è, qua ci raccontano, ma non voglio approfondire, che i nigeriani che scappano dalla guerra, non è così, sono solo 3 regioni dove c'è Boko Haram, ma quelli che stanno scappando adesso sono dal sud della Nigeria, sì, sì, ed è un'immigrazione di carattere economico. L'hanno bisogno di 17 milioni di alloggi, 17 milioni, perché non pensare di fare un vero piano europeo per andare ad investire, che sarebbe utile sicuramente ai nostri imprenditori, ma utile allo sviluppo, sì, di quel territorio. L'alternativa è che ci facciamo carico di tutta la povertà dell'Africa. Sono milioni di persone, poi qualche folle pensa che dobbiamo andare a recuperare e portarli tutti in Italia, che in poi è detto del paese che investe meno del proprio PIL nella cooperazione internazionale, questo è a dire. Robecchi, però insomma, queste sono le soluzioni. No, della, ma non è questo lei. Il problema. Intanto vorrei dire, mi spiace, sembra una battuta un po' macabra, la faccio lo stesso. Non non facciamoci questa pippa dell'aiutarli a casa loro, perché li abbiamo aiutati a casa loro in Iraq, e adesso l'Iraq è praticamente in mano all'ISIS. Li abbiamo aiutati a casa loro in Libia e vedete cosa è successo. In più è molto divertente questo distinguo tra guerre, zone di guerra o no. Per esempio la Libia non è oggi considerata zona di guerra burocraticamente, ma io vi sfido a abitare in una città libica, magari di quelle sul confine tra i due governi che si imparano, ecco. Quindi questa è una stupidaggine, una stupidaggine grossa, diciamo così. In più si insiste su questo fatto che quelli che vengono qua ci rubano qualcosa. Non è vero, questo non è vero. Ho capito, vero. Però Robecchi, una gestione soldi, ci vuole i soldi con l'immigrazione, sì. Ad oggi non sono gli immigrati, sono o i banditi che si telefonavano, quelli delle COP di Mafia Capitale, dicendo gli stranieri ci fruttano più della droga, oppure sono gli imprenditori che fanno raccogliere le arance a un euro alla cassetta, come hai detto tu stamattina, Milan, oppure sono gli imprenditori del nord-est che ogni tanto periodicamente vengono blindati perché hanno 70 schiavi nelle stalle, queste cose qua. Ma adesso sono. Cioè, ci sono casi limiti che vengono raccontati alla stampa, ma capito, l'immigrazione è anche è frutto di grande ricchezza. Hai ragione, Milan, però grande ricchezza positiva, che se i casi limite li può usare Fedriga per dire Udine mio sì, cugino, mio cugino, anche allora tu. Li posso usare anch'io. Però uno Stato può avere una politica migratoria anche sull'immigrazione intelligente, cioè voglio dire, effettivamente no? L'idea ma di accogliere certo. Tutti è un'idea anche sbagliata, cioè non è che no, possiamo dire allora, accogliamo tutti. Esatto, l'idea di accogliere tutti è sbagliata, a parte che vorrei anche sottolineare che non tutti vogliono venire qua, state tranquilli, primo. Secondo, un paese come il Libano, che ha una guerra di fianco, quella della Siria, che è un paese di 3 milioni di abitanti, 4 milioni di abitanti, ha 1 milione di profughi, cioè ha preso per profughi il 25% della sua popolazione. Ovviamente io non dico che bisogna fare così, però bisogna fare che se c'è un'emergenza umanitaria e della gente che scappa perché o muore di fame o viene sparata dall'ISIS o decapitata dall'ISIS, noi dobbiamo fare qualcosa. Ma quello siamo sempre lì, cioè deve essere accolta però in tempi certi, se ci sono le commissioni che decidono 6 mesi, un anno, eccetera, prima di stabilire se uno ha diritto di essere o profugo o rifugiato oppure no, che fa nel frattempo uno Stato che non è in grado di organizzarsi li accampa magari in una tendopoli, in una città, e lì si crea tutto quel rapporto, anche quel cortocircuito della gente che vede questa cosa e dice ma è insopportabile questa cosa, ed è assolutamente ragionevole questa reazione. In Germania, ci ha raccontato un corrispondente della Germania la scorsa settimana, queste cose non funzionano perché vengono fatte con ordine, cioè le cose sono più certe, sicure, e accolgono molti più profughi e molti più rifugiati dell'Italia, molti di più in Germania che da noi. Comunque su questo tema torneremo, anche sulla questione del cattivismo. Ringrazio Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega alla Camera, e Alessandro Robecchi, nostro collega. Mentre dopo la pubblicità, sapete chi avremo con noi? Avremo con noi Eva Klotz. Chi è Eva Klotz? Ecco, lei che da anni si batte per l'indipendenza del Sud Tirol, neanche lo devo chiamare Trentino Alto Adige, o Alto Adige meglio, ma Sud Tirol, perché a Bolzano ieri, centenario della commemorazione dell'inizio della Grande Guerra, il tricolore era a mezz'asta. A mezz'asta, la bandiera tricolore a mezz'asta. Perché? Tra poco. Sera il 24 maggio ieri è centenario della Grande Guerra. E però che è successo in Trentino Alto Adige, in Sud Tirol? È successo che per scelta dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano il tricolore era a mezz'asta, non c'era nulla da celebrare. Perché noi lo vogliamo chiedere a una persona, a un personaggio politico che, anche se non fa più politica attivamente, però ha fatto e fa la storia di quelle terre. Eva Klotz, buongiorno e benvenuta, come sta? Buongiorno, sì, abbastanza bene. Ma è ancora il leader del Südtiroler Freiheit, pur non facendo... Diciamo così, leader non sono mai stata. Io mi chiamo una combattente e siccome adesso mi sono ritirata dal consiglio provinciale sì. per problemi di salute di mio marito, sì, sono infatti. Andata in seconda o terza fila, in ma combatto... nell'ambito delle mie forze, allora, del mio tempo. Quel tricolore a mezz'asta, lei sì. immagino sarà d'accordo, lei non l'avrebbe neanche issato proprio il tricolore, la bandiera. No, non avrei messo il tricolore, però quanto ne so sono state messe in tre comuni soli, in quelli diciamo Bolzano, Merano e Leifers, nei quali con la popolazione italiana ha una grande componente, oppure come a sì. Bolzano e Leifer fanno la maggioranza. Però, ma che, sì, ma che significato? So, ma mi spieghi un attimo, che significato cioè erano per testimoniare la tragedia del popolo tirolese o perché stavate, è un modo per dire, in quella grande guerra in fondo noi stavamo con l'Austria o i nostri nonni stavano con l'Austria, non con l'Italia? Di fondo c'è che veramente questo è una provocazione per l'anima tirolese, ma anche per l'anima della gente per bene. E qui vorrei solo citare che Gilberto Onetto, che ha fatto un libro, Il Guerrone, La nefandezza, mm-hmm. è proprio questo il nocciolo, perché, come dice, riprovano la celebrazione in pompa magna. Sì. Devono ricorrere però a massicce dosi di retorica, interpretazioni capziose e vere e proprie menzogne. Perché quando adesso festeggiano una grande vittoria, la vittoria non è stata, perché nessun soldato allora italiano, diciamo così, perché tanti che non volevano fare quella guerra, no, in Italia, ma non hanno neanche messo piede su terra tirolese, combattendo. Quindi lei dice è solo una melassa retorica tutto sì. questo. Ma lei ce l'ha? Mi scusi sì. un attimo, ma lei in casa ce l'ha una bandiera italiana? No. Mai. Come dovrei, la mia identità è del tutto un altro. Io lascio alla bandiera a ciascuno, però non voglio aver imposto una bandiera nella quale non mi riconosco. Sul territorio italiano è normale mettere la bandiera italiana, voglio dire, no? Sì, noi hanno preso con tutte le truffe e perciò qui non hanno nessun diritto di esporre delle bandiere. Però un conto è in casa sua, nel suo giardino, lei fa quello, ma nel comune di Bolzano le sembra normale non mettere la bandiera italiana, metterla a mezz'asta, voglio dire? Qui proprio il sindaco ha dimostrato buon senso. Perché al giorno di oggi fare quella cosa è fuori testa, perché in una Europa unita celebrare l'entrata, dichiarazione di guerra a un altro stato, paese, diciamo, europeo, cioè, diciamo, ex alleato, ma dove siamo arrivati? Si pensasse che l'Austria o la Germania facesse una cosa tale, è fuori testa. E perciò io mi chiedo come mai deve essere un grande senso diciamo di complesso, sì. che sanno in verità vittoria questo non è stato, mm-hmm. l'hanno preso perché hanno cambiato alleanza che prima erano ma lei dice perché alleati. Cosa c'è da celebrare in una guerra contro l'impero austroungarico, contro l'Austria, diciamo così, anche se non era proprio l'Austria, non c'è nulla da celebrare visto che siamo l'Europa Unita. Sì, e non hanno celebrato niente, no? In Austria hanno celebrato un mese fa che sono diventati liberi, che le truppe russe se ne sono andate a casa, che hanno ricevuto la libertà democratica. Ma questo che qui i ministri stanno facendo, ma non so che cosa abbiano quelli in testa. Vabbè, infatti la polemica c'è stata. Però per concludere, Eva Klotz, io le devo fare questa domanda. Lei si è sempre battuta per l'indipendenza del Sud Tirol, no? Sì. Però il credo un milione di euro più o meno di qualcosa già preso e qualcosa prenderà come vitalizio, non vitalizio, diciamo stipendio di buona uscita dalla politica, quello è italianissimo, no? Quello le piace? No, quello è un'altra cosa. Io ho rimborsato tutto quello, perché ho detto, io mai avevo visto una lista, avevamo acconsentito tutti quanti perché erano stati risparmiati subito. Sì. 56 milioni per dare a famiglie che erano stati versati ai fondi di pensione per noi politici. No, ma mi faccia capire, lei li ha presi? Anni prima, li ha presi, no? Però questi soldi? Io mi risulta che 435 mila euro li ha già presi. No, li ho rimborsato. Quello tutto che dopo è stato quello che è stato deliberato in consiglio regionale. Cioè li ha ridati indietro? Io non ho fatto io quelle pratiche, perché non avevamo in mano neanche, diciamo, le liste. No, ma mi faccia capire, perché non ho capito, le ha tenuti o le ha ridati indietro? Tutto quello rimborsato che era da rimborsare, cioè da dire che proprio quelle erano le leggi e io non sono andata in politica per fare i soldi, perciò mi attengo a quello, non ho fatto mai ricorso perché non... Io ho i miei ideali e vado avanti con i miei ideali. Però li avrà presi, no? Cioè, gli stipendi, anche i 700.000 euro che dovrà prendere nei prossimi anni, che dovrà riscattare, quelli le aspettano. Di quelli non ho neanche più un bottone, perché li ho rimborsati. Ho trasversato tutti quelli che fondi del Family Fund sono stati rimborsati al Consiglio regionale. Quindi Non prenderà un euro. No, quello no. È sempre questo secondo le regole che sono state fatte un anno fa, va bene. Quando è stato rivisto tutto, no? Va bene, no, però, no, ma questo glielo chiedevo come curiosità, perché sa, se no. Del resto, non sono soldi italiani, ma sono soldi che, secondo le leggi allora vigenti, sono stati messi in un fondo per le pensioni politiche, perciò non sono soldi italiani, sono soldi della nostra gente. Della sua gente, che però rimane sempre in Italia fino a questo momento, però lei rivendica, come dire, la battaglia per l'autonomia del Sud Tirol. La ringrazio ovviamente, Eva Klotz, grazie per essere stata con noi, è il momento del traffico. Ascoltatori, è il momento dei lavoratori, ma succede che io ho un minuto e mezzo. Come faccio in un minuto e mezzo? Intanto saluto il mio amico Daniele Gatti, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Ma tu in un minuto e mezzo riesci a dirci che fai di lavoro? Perché c'è detto attore e guida turistica. Esatto. Io sono attore, che vengo dalla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, vivo a Genova adesso e mi sono inventato una professione nuova, quella di attore e guida turistica. Cioè tu a Genova acting tour. Porti le persone, ma fai che cosa? Non una banale gita, un banale tour turistico. Cosa? Regalo emozioni, dicono le persone che mi seguono, dai. Cioè? Passami questo piccolo slogan. Cioè, mi invento dei veri e propri percorsi fra arte e letteratura. Non mi travesto, insomma, da personaggio, perché non è il mio stile, diciamo, ma studio dei veri e propri itinerari, mi studio ovviamente sia l'arte, ma proprio dei percorsi sui passi di Giuseppe Mazzini, sui passi di Santa Caterina Fieschi, sui passi di un pellegrino medievale. Mi cerco letture di luoghi o di personaggi realmente esistiti. E quindi le evoco, capito? Okay. A volte poi unisco anche con altri amici artisti e facciamo proprio un vero e proprio evento che dura dalle 3 anche una giornata intera, dove persone dai bambini agli anziani ci seguono. Quindi è un acting tour, cioè, tu fai un tour ma racconti anche spaccati, leggi poesie, leggi, interpreti anche personaggi, vai nei percorsi storici della città. Guarda Daniele, a me dispiace molto, avrei voluto approfondire. Dammi intanto il tuo sito su Genova, sì. chi ti può contattare? A chiunque, anche da fuori veramente mi contattano molto, io faccio visite in italiano e in francese. Guarda, è www.danielegatti.com e lì vedranno sia la mia carriera di attore, ho lavorato con personaggi molto importanti anche in giro per il mondo, ma anche poi il lavoro di acting tour, che è questo qui. Danielegatti.com, andate a Genova e conoscetelo. Ciao.